le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Operazione contro Al-Qaeda in 7 regioni italiane, 18 gli arresti, indizi su un possibile attacco al Vaticano e contatti diretti tra gli affiliati e Bin Laden. Le verifiche degli americani dopo il raid nel quale è morto Loporto sono durate 3 mesi, dice il ministro Gentiloni. Parlamento deserto durante l'informativa. All'indomani del vertice europeo sull'immigrazione, i dubbi sui risultati, critiche le ONG e la Lega. Salvini dice l'Europa ha preso in giro Renzi. Manca una settimana all'avvio di Expo. Dagli Stati Uniti ci si attende un numero di visite del 45% superiore a quello dell'anno scorso, più 30% da Gran Bretagna e Francia. Semifinali di Champions League, la Juventus pesca il Real Madrid, l'altra sarà dunque Bayern contro Barcellona. Europa League, il Napoli contro gli ucraini del Dnipro, Fiorentina contro il Siviglia. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, e la nostra pagina sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e il numero di sms durante la diretta, il 349-238-6666. Iniziamo dalla maxi operazione antiterrorismo di oggi. Sono state arrestate 18 persone componenti di un'organizzazione terroristica affiliata ad Al-Qaeda. Erano in diverse province italiane, la base operativa in Sardegna. Le indagini sono andate avanti per mesi, ore e ore di intercettazioni analizzate con pazienza. Ed è tra queste conversazioni che sarebbe emersa la presenza in Italia di un kamikaze e l'ipotesi che si progettasse un attentato in Vaticano. Gli inquirenti lo riferiscono con tutte le cautele del caso, anche perché il procuratore Mura ribadisce che l'obiettivo della organizzazione colpita all'alba era il Pakistan e il governo di Islamabad. Si tratta di un'attività terroristica che fondamentalmente si è orientata sul Pakistan, era diretta a indurre il governo pakistano a cessare da un'attività antagonistica rispetto al movimento talebano. Una struttura complessa e con interessi diversificati, l'organizzazione disponeva di uomini e armi con cui fare attentati. Tra gli arrestati infatti ci sarebbero anche gli autori della strage avvenuta nel mercato centrale del Mina Bazar di Peshawar, che nell'ottobre del 2009 provocò la morte di oltre 100 persone. A capo della raccolta fondi c'era un imam e formatore coranico che operava tra Brescia e Bergamo, incoraggiava le donazioni presso le comunità pakistano-afghane radicate nei territori. L'organizzazione si occupava anche del traffico di migranti. Pakistani e afghani venivano introdotti illegalmente in Italia per poi proseguire verso il nord Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti col presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, Giacomo Stucchi, col quale ci occuperemo anche della vicenda di Gabriele Loporto. Ieri è arrivata la notizia della morte del cooperante italiano ucciso in un raid americano. Questa mattina il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in un'aula sostanzialmente deserta, ha riferito appunto sulla morte di Loporto. Il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, l'aula di Montecitorio vuota, colpa anche del venerdì in cui i deputati tornano a casa e anche i banchi del governo erano vuoti, presenti solo il ministro Paolo Gentiloni e il sottosegretario Benedetto Della Vedova. In questa atmosfera la Camera osserva un minuto di silenzio per Giovanni Loporto, il cooperante italiano ucciso durante un'operazione antiterrorismo USA tra Afghanistan e Pakistan. Il ministro ricostruisce quanto rivelato da Obama al premier Matteo Renzi. Sentiamo. Il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha informato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella tarda serata del 22 aprile scorso. Tale informazione è stata fornita al nostro governo e all'opinione pubblica americana appena finalizzate le necessarie verifiche condotte da parte statunitense. Tali verifiche si sarebbero protratte per 3 mesi per la particolarissima natura del contesto in cui si è svolta l'azione antiterrorismo. E Gentiloni ha anche detto che l'ultima evidenza che Giovanni Loporto fosse in vita risale allo scorso autunno, ma le parole del titolare della Farnesina non convincono le opposizioni, da Forza Italia al Movimento 5 Stelle alla Lega Nord, tanto che anche nel vuoto dell'emiciclo di Montecitorio non manca qualche attimo di tensione. Angelo Tofano, Movimento 5 Stelle, si scaglia contro Gentiloni. Le dichiarazioni rese, dice Tofano, ammazzano 2 volte Giovanni. Cosa è andato a fare il premier Matteo Renzi da Obama? Per Stefania Prestigiacomo, Forza Italia è stato imbarazzante, Gentiloni non ha detto niente, che tipo di informazioni il governo italiano ha scambiato con la CIA? Dello stesso parere Barbara Saltamartini, Lega Nord, Gentiloni ha riferito quanto già letto sui giornali. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, siamo alle cronache dall'immigrazione. All'indomani del vertice europeo emergono critiche soprattutto dalle organizzazioni non governative. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. E così non mancano le critiche sull'Europa. Insoddisfazione viene espressa da un organo vicino alla Conferenza Episcopale Italiana, la Fondazione Migrantes. Dal vertice esce l'Europa dei nazionalismi, mentre è rimandata la costruzione dell'Europa sociale e solidale, si legge in una nota. Salvare vite non è ancora una priorità di Bruxelles, lamenta Medici Senza Frontiere. Deludente l'impegno anche per Save the Children, secondo il quale si tratta di un impegno a metà. Di passi in avanti invece aveva parlato ieri Renzi, secondo il quale finalmente c'è una strategia, mentre per il presidente del Senato Grasso è importante comunque la presa di coscienza da parte dell'Europa. E a commentare il vertice oggi anche il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri. Il numero di mezzi offerti dagli stati supera le aspettative, dice, questo permetterà un aumento delle operazioni nel Mediterraneo. Ricordiamo che il vertice si è concluso con la decisione di triplicare le risorse economiche per Triton, che passeranno da 2,9 milioni di euro al mese a 9, ma anche di aumentare il numero di mezzi. Il mandato legale non sarà modificato, anche se i comandanti dovrebbero avere più libertà di azione. In sospeso invece il tema dell'affondamento dei barconi, l'alto rappresentante Mogherini ne discuterà con l'ONU il prossimo martedì. Resta aperta anche la questione dell'accoglienza, cioè la destinazione dei migranti tratti in salvo, una redistribuzione che per ora rimane su base volontaria. Intanto siamo arrivati a 25.480 arrivi, compresi quelli di ieri pomeriggio, oltre 3.000 persone in più dell'anno passato. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Di questo, anche di questo tema, torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione. Parleremo con il responsabile dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Bruxelles. Gli chiederemo un giudizio su questo accordo raggiunto appunto in Europa. E poi parleremo di un progetto interessante che l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sta mettendo in piedi insieme all'Italia, ed è un progetto che riguarda l'andare in Niger, sostanzialmente convincere i migranti a non partire. Cercheremo di parlarne più avanti. Intanto l'Europa discute anche di Grecia, oggi riunione dell'Eurogruppo. Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, effettivamente la situazione è ancora un nulla di fatto. C'è stata una situazione abbastanza deludente, fumata nera in sostanza. Jerome Disno, il presidente dell'Eurogruppo, la conferenza stampa è appena terminata, ha detto di essere pronto ad un nuovo incontro che potrebbe essere l'11 maggio, ma ha detto anche la sua agenda è flessibile, quindi ci potrebbe essere un incontro anche in tempi più ravvicinati. Il più duro è stato il presidente della BCE, Mario Draghi, ha detto che il tempo sta per finire, ha invitato i greci a fare il possibile per trovare un accordo, perché se c'è troppa volatilità la BCE potrebbe ridurre il valore dei collaterali, delle garanzie che le banche greche stanno portando per avere la liquidità, che è l'unica fonte per cui in questo momento il sistema bancario resta in piedi. Il ministro Varoufakis invece si è detto pronto a discutere sulle privatizzazioni, ma si è detto ancora contrario al taglio delle pensioni. A te Simone. Grazie a Vittorio Darold per questa corrispondenza e per questo aggiornamento. Veniamo alla vicenda del genocidio armeno, sul quale sono tornate a sollevarsi polemiche, come ricorderete, dopo le parole del Papa, che ha espressamente parlato di genocidio, parola che i turchi non vogliono utilizzare. C'è stato uno scontro diplomatico con il Vaticano, e però nel frattempo oggi si è svolta per la prima volta nella storia una cerimonia in Turchia proprio in ricordo delle vittime armene, anche se appunto la parola genocidio resta bandita. Come è andata questa cerimonia? Ce lo racconta da Istanbul Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, oggi è una giornata davvero importante in Turchia, sicuramente per le celebrazioni del centenario della battaglia di Gallipoli, ma anche perché, come dicevi, oggi per la prima volta nella storia, con una messa nella chiesa del patriarcato armeno di Istanbul, si sono commemorati i massacri di 100 anni fa, naturalmente senza chiamarli genocidio. Proprio in quel patriarcato che ancora oggi espone la targa con scritto stabilito dal sultano Mehmet, il conquistatore, nel 1461. Molto forte la commozione, soprattutto dei più anziani, una chiesa affollatissima e naturalmente super protetta dalle forze di polizia turca. A rappresentare il governo c'era Volkan Bozkır, ministro per gli affari europei, ma è stato letto anche un messaggio di Erdogan, nel quale il presidente esprimeva tristezza e partecipazione per le sofferenze subite dagli armeni 100 anni fa. Giusto ieri, nel primo giorno delle celebrazioni del centenario della battaglia di Gallipoli, Erdogan aveva ribadito che la Turchia non ha nulla contro gli armeni. Alle sue parole fanno eco oggi quelle del presidente armeno che da Erevan, nel giorno delle commemorazioni, si è detto pronto a normalizzare i rapporti con la Turchia. E da Istanbul è tutto. Grazie Marco Barbonaglia, veniamo alla cronaca. Adescava ragazzini con SMS, WhatsApp e Facebook e li sottoponeva a sedute di cosiddetti massaggi particolari. Il parroco del Sacro Cuore di Gesù di Vercelli, Don Massimo Iuculano, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata. Il sacerdote è stato sospeso dalla curia. E c'è un'altra storia in queste ore che coinvolge un religioso. Arrestato e trasferito nel carcere di Arezzo, padre Gratien Alabi, congolese, 45 anni, della minuscola parrocchia di Caraffaello, abbadia Tedalda, nel cuore degli Appennini. Per lui, che qui tutti chiamano padre Graziano, i capi d'accusa sono cambiati, non più favoreggiamento ma omicidio e occultamento di cadavere, di Guerrina Piscaglia, 50 anni, sposata, un figlio. Un legame assiduo, quello tra Guerrina e Don Graziano, che aveva alimentato voci e pettegolezzi in paese. Una storia iniziata probabilmente nella primavera del 2013, quando nella sperduta frazione della campagna aretina arrivarono da Parigi tre frati congolesi, Faustin, Silvestre e padre Graziano, viceparroco. Tante le novità che nel piccolo paese vennero introdotte dai tre religiosi. Alla messa si canta e si balla, ma qualcosa viene segnalato in forma anonima. Padre Graziano ha una passione spiccata per le donne. Quando sparisce la Piscaglia, mezze confessioni raccontano che la cinquantenne aretina avrebbe detto al prete d'aspettare un figlio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Manca una settimana ad Expo. Meno 7 tra una settimana, il prossimo venerdì 1 maggio, Expo 2015 apre le porte al mondo, un mondo che si quantifica in 20 milioni di visitatori da 140 paesi. C'è molto ottimismo in questa previsione, ma dopo tanto pessimismo, scandali e ritardi, Giuseppe Sala incrocia le dita e dice: siamo pronti. Siamo ai dettagli, le centraline elettriche da coprire, i bagni da nascondere, ma gli ultimi dati turistici su Milano sono confortanti, dicono che dagli Stati Uniti rispetto al 2014 ci si aspetta un 45% in più, 30% dalla Gran Bretagna, 30% dalla Francia, confermati flussi dall'est con i cinesi, unici ad avere due padiglioni, che fanno la parte del leone. Non venite in macchina, anche se i parcheggi sono prenotabili su internet insieme al biglietto, si teme un grande Big Bang automobilistico, soprattutto venendo dalla Torino-Milano. Per raggiungere l'Expo da Milano va presa la linea 1 della metro fino alla fermata Rofiera con biglietto extraurbano. Per chi arriva in aereo da Linate, Orio oppure Malpensa potrà usare delle navette per raggiungere la città. Malpensa è un punto nevralgico, rinforzato, come è stato ricordato dal ministro Del Rio lunedì scorso, da un nuovo investimento di 30 milioni. Vedrete che Expo sarà un grande successo di persone che impareranno ad amare l'Italia attraverso Expo, quindi siamo fiduciosi. Ora mancano solo due appuntamenti. Il 28 aprile all'Università Statale verrà presentata la Carta di Milano, una carta di intenti per la biodiversità e la redistribuzione del cibo nel mondo. E poi il 30 aprile concerto in Mondovisione di Boccelli da Piazza Duomo. Con te partirò. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio adesso e ai sorteggi europei, i sorteggi per le semifinali. Allora, Giovanni Capuano in studio con noi. Giovanni, beh, insomma, la Juventus, come dire, sarà dura perché il Real Madrid, però poteva pescar peggio. Sì, diciamo che è andata bene, anche se fa un po' effetto dire che è andata bene pescare il Real Madrid, ma del resto questa mattina era davvero difficile potersi dire soddisfatti. C'è il Real Madrid di Carletto Ancelotti, prima gara in casa per la Juventus e ritorno al Bernabeu, e anche questa potrebbe essere una combinazione favorevole, considerato che magari consentirà alla Juventus di restare in gara per tutti e 180 minuti. Probabilmente il Real Madrid in questo momento delle altre tre era la squadra più in difficoltà, ha qualche infortunio di troppo, ha perso Modric fino alla fine della stagione, sta recuperando Bale e Benzema che però non stanno benissimo, c'è una situazione di contestazione tra la società e Carletto Ancelotti, insomma ci sono tanti piccoli segnali che dicono che il Real Madrid potrebbe essere l'avversario migliore. C'è anche il fatto che mai nessuno ha vinto due volte di fila la Champions e il Real è campione in carica, e quindi se la scaramanzia dice qualcosa, dice che questo potrebbe essere l'avversario giusto. L'altra semifinale è Barcellona-Bayern Monaco, partitone pazzesco, con il ritorno di Guardiola al Camp Nou, che ha mille significati. Oggi i giornali spagnoli titolavano Marca che non voleva il derby spagnolo se non nella finale di Berlino ed è stato accontentato. I giornali di Barcellona chiedevano invece la partita contro la Juventus e gli è andata male in questo caso, perché la Juve va a Madrid. Senti, e poi c'è stata l'Europa League, anche i sorteggi di Europa League. Poi c'è stata l'Europa League e anche qui è andata bene, nel senso che abbiamo evitato il derby italiano tra Napoli e Fiorentina. Il Napoli gioca contro la squadra sulla carta più scarsa del lotto, che è il Dnipro, ed è un buon abbinamento perché è la più forte potenzialmente delle quattro che gioca contro la più debole. E poi c'è Siviglia-Fiorentina, che è un accoppiamento molto equilibrato. Sulla carta forse il Siviglia ha qualcosa di più, tra l'altro Siviglia che ha vinto l'Europa League nella passata stagione nella finale di Torino contro il Benfica, però la Fiorentina sta stupendo e a questo punto ha davanti a sé tutte le porte aperte. La cosa bellissima sarebbe portare a Varsavia il 27 maggio, giorno della finale di Europa League, sia il Napoli che la Fiorentina. Sarebbe il trionfo del nostro calcio in una stagione che comunque vada da qui alla fine è una stagione trionfale. Noi non portavamo tre semifinaliste nelle due coppe da tempo immemore, e dobbiamo tornare a al 2003 con le tre semifinaliste in Champions League o addirittura ai meravigliosi anni 90. Nel ranking UEFA stiamo facendo dei balzi avanti notevolissimi e da qui a un paio di stagioni siamo di nuovo tornati competitivi per quel terzo posto, che significa avere una squadra più in Champions League con tutto quello che significa. Grazie Giovanni Capuano per questo aggiornamento. Naturalmente di tutto questo si tornerà a parlare in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi sentiamo che cosa succede sulle strade e poi, come già vi dicevo, sentiremo Eugenio Ambrosi dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e Giacomo Stucchi, che è il presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi. A tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Operazione contro Al-Qaeda in tutta Italia, 18 arresti, indizi su un possibile attacco al Vaticano, contatti diretti tra gli affiliati e Bin Laden. Le verifiche degli americani dopo il raid nel quale è morto Loporto sono durate 3 mesi, dice il ministro Gentiloni. Parlamento deserto durante l'informativa dopo tutte le richieste al governo di riferire in aula. All'indomani del vertice europeo sull'immigrazione, i dubbi sui risultati, critiche le ONG. Semifinali di Champions, la Juventus pesca il Real Madrid, in Europa League il Napoli contro gli ucraini del Dnipro, la Fiorentina contro il Siviglia. E torniamo a parlare di immigrazione e di migrazioni, lo facciamo con Eugenio Ambrosi, che è il direttore dell'ufficio di Bruxelles dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, un'organizzazione intergovernativa che ha 156 stati membri, 460 uffici nel mondo. Ambrosi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, l'abbiamo chiamata, e tra un attimo ne parleremo, per un progetto pilota che si sta pensando insieme all'Italia, che arriva fino al Niger, e ne parleremo tra un attimo. Io prima però vorrei un vostro giudizio sulle conclusioni del vertice europeo di ieri di Bruxelles. Vorrei capire se ritenete che sia un passo avanti o siano conclusioni deboli secondo voi. No, è senza dubbio un passo avanti, innanzitutto per la reazione ad alto livello abbastanza rapida agli ultimi eventi tragici del Mediterraneo, e credo che le conclusioni contengano una serie di indicazioni da mettere in pratica nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che sono sicuramente utili e positive. Ovviamente è una risposta immediata a una situazione contingente molto seria, a cui andranno aggiunte nel breve termine o nel più breve tempo possibile altri tipi di azioni in altre sfere che possono permettere di portare un po' più sotto controllo, diciamo così, la gestione dei flussi, cosa che peraltro è prevista nel lavoro dell'Unione Europea, che dovrebbe mettere a punto un'agenda comune sulla migrazione nelle prossime settimane, quindi immaginiamo e speriamo che ci siano anche altri elementi che possano completare questo quadro iniziale. Sembra, Ambrosi, che prevalga ancora un certo livello di egoismo, in parte forse dettato anche da motivi elettorali, penso per esempio al caso della Gran Bretagna, nella volontà di accogliere i profughi e di distribuire più equamente i profughi e gli immigrati negli altri paesi europei, no? Ma sicuramente questo è un settore dove c'è bisogno ancora di un po' di lavoro all'interno dell'Unione. È ovvio che la situazione anche dei sentimenti generalizzati nelle varie opinioni pubbliche europee non aiuta a prendere certe decisioni un poco più coraggiose in questi settori. C'è bisogno, credo, di uno sforzo importante da parte di tutti, non solo politici ma anche organizzazioni, i mass media eccetera, per cercare di far capire un po' di più alla gente che qui non stiamo parlando di nemici che ci stanno invadendo, stiamo parlando di una categoria di persone che ha bisogno di un certo tipo di assistenza, di protezione quando scappano dalle guerre e che quindi c'è bisogno di mettere in piedi meccanismi efficaci che permettano di accogliere queste persone senza nulla levare ai cittadini europei che vivono attualmente in Europa e che non devono sentirsi minacciati da una possibile invasione massiva di rifugiati. Del resto è la stessa cosa che gli europei hanno fatto 70 anni fa dopo la Seconda Guerra Mondiale, andando in varie parti del mondo a cercare fortuna, protezione, una possibilità di vita, eccetera. Quindi è un ciclo, diciamo, normale della vita, della storia, dice lei. Della storia di tutti i paesi e va accettata e considerata in quel senso. Senta, Ambrosi, si è detto molto nei mesi scorsi, anche da alcune forze politiche, si è espresso il concetto aiutiamoli a casa loro, oppure facciamogli capire che l'Europa non è il Bengodi. Allora, mi sembra che stia partendo, da quel che ho letto, un progetto pilota naturalmente, che vi vede coinvolti insieme all'Italia stessa, ed è un progetto in Niger. L'idea qual è? Che cosa andreste a fare in Niger in questo progetto pilota? Allora, innanzitutto sì, è un progetto che stiamo cercando di mettere a punto con il supporto dell'Italia, ma anche con il supporto della Commissione europea, che è uno dei partner. E l'idea è abbastanza semplice, diciamo. Prima di tutto il Niger è uno snodo molto importante nei flussi migratori di tutti i tipi, tanto di rifugiati come di migrazione irregolare, come di traffico di persone, eccetera. È una delle parti dell'Africa da cui molti di questi flussi passano per poi arrivare in Libia o nel nord dell'Africa e cercare di passare il Mediterraneo. Quindi l'idea è di creare dei meccanismi in Niger e, se funziona, replicarli in altri paesi della stessa fascia dell'Africa subsahariana, dei meccanismi per cercare di incontrare almeno in parte questi flussi prima che arrivino in Nord Africa, soprattutto in Libia, dove in questo momento una volta che entrano non si sa più che cosa succede ovviamente per le condizioni della Libia, incontrarli in Niger, cercare di portare avanti delle attività per identificare, diciamo così, i tipi e le categorie di migranti che si incontrano, quindi se sono persone che hanno diritto all'asilo saranno indirizzate verso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e le strutture di asilo che possano permettere l'assistenza necessaria, se sono vittime di traffico saranno indirizzate verso le attività e le iniziative messe in piedi per assistere le vittime di traffico, se sono migranti economici che non hanno legalmente la possibilità di arrivare in Europa, ci saranno attività di informazione e anche di counseling, come si dice in gergo, per fargli capire la situazione effettiva in cui si trovano, i rischi che dovrebbero affrontare e i pericoli che potrebbero affrontare se continuano il viaggio e offrire delle alternative per ritornare a casa prima di provare a passare il Mediterraneo. Anche sì. Perché una volta arrivati in Europa, se arrivano in maniera irregolare, molti di loro sarebbero ritornati in ogni caso. In 20 secondi, quanti uomini ci sono, quante persone, uomini e donne naturalmente, uomini è inteso genericamente, quanti uomini e donne ci sono a disposizione per questa missione? Ma dal punto di vista del nostro staff, questo è parte di quello che stiamo facendo e costruendo. No. Noi stiamo cercando di creare quelli che chiameremo nell'ambito di questo progetto Migrant Resources Mechanism, e cercheremo di creare questi meccanismi, più o meno una dozzina in tutto il Niger, che avranno la responsabilità di cercare di incontrare i migranti sulle rotte che effettivamente seguono una volta entrati in Niger. Ovviamente l'aspetto di ritorno che ho menzionato sarà accompagnato da attività di sviluppo locale e di aiuto alla reinserzione di questi migranti nelle loro comunità di origine, per cercare di attaccare le ragioni fondamentali per cui si muovono all'inizio, e quindi per cercare non semplicemente di rimandarli a casa così non arrivano da noi, ma rimandarli a casa in un meccanismo che possa garantirgli che abbiano la possibilità di restare, non doversi muovere di nuovo. Grazie ad Eugenio Ambrosi, direttore dell'ufficio di Bruxelles dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Le auguro buona giornata. Saluto Giacomo Stucchi, presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi. Bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, buongiorno. Con lei volevamo parlare di due cose. La prima è la vicenda di Gabriele Loporto, ucciso, lo abbiamo raccontato, in un raid americano. Giovanni Loporto, ucciso in un raid americano. Lei ha detto che le scuse americane non bastano. Che cosa vuol dire? Non bastano perché naturalmente sono doverose, però bisogna capire innanzitutto cosa è successo quel giorno, il giorno dell'attacco, qual è stata la fase preparatoria, che tipo di informazioni avevano e cosa effettivamente è stato fatto per prevenire il fatto che ci fossero altri soggetti diversi rispetto a quelli che erano l'obiettivo di quel raid fatto con i droni, per prevenire appunto che ci fossero dei soggetti che venivano in questo caso uccisi purtroppo in modo involontario. Di solito queste operazioni vengono fatte con degli accorgimenti molto elevati, e qui evidentemente la CIA ha svolto un lavoro che non è stato sufficiente per quanto riguarda la garanzia di non causare queste vittime innocenti. Ha sbagliato la CIA, dice lei, sì? Beh, penso proprio di sì, nel senso che se l'amministrazione comunale, l'amministrazione americana di Obama porge le scuse all'Oporto, all'Italia, ma soprattutto all'opinione pubblica americana per quello che è accaduto, è evidente, e lo fa tramite il proprio presidente, è evidente che ammette un errore non di poco conto. E chiederete informazioni ai vostri colleghi americani? Cioè, io so che i contatti ci sono, ne avevamo parlato in altre occasioni? Assolutamente sì, anche perché martedì prossimo verrà l'autorità delegata subito in audizione al comitato. Mi auguro che porti tutte le informazioni ricevute nel frattempo dall'intelligence americana, ma soprattutto chiederemo il perché, essendo una zona dove si sapeva potevano esserci degli ostaggi detenuti in quelle aree, non sia stato fatto un controllo accurato su quello che si andava compiendo in termini di attacco per la distruzione dei compound dei talebani. Stucchi, una domanda invece sulla nostra notizia di apertura di queste ore, che è questa maxi operazione della polizia contro Al-Qaeda, 18 arresti, indizi su un possibile attacco al Vaticano, contatti diretti tra gli affiliati e il FU Bin Laden. Vorrei un suo giudizio, un suo commento. Guardi, da questo punto di vista posso dire una cosa, che naturalmente alcuni, se non quasi tutti i soggetti che sono stati arrestati oggi, sono stati praticamente seguiti, quindi erano oggetto di attività investigativa anche preventiva. Il fatto che fosse una rete così strutturata ha aiutato la loro individuazione. Perché il vero pericolo è rappresentato da soggetti che operano autonomamente o in piccoli gruppi. Pensare oggi di poter operare nel nostro paese in 18, 20 o 30 persone con una rete quindi strutturata e sparsa su tutto il territorio nazionale senza diciamo così, dare nell'occhio, utilizzo un termine improprio ma che può rendere idea ai vostri ascoltatori, è difficile, mentre è più facile che venga compiuto un gesto eclatante da parte di un soggetto solitario. Naturalmente è il risultato di un lungo lavoro, che non è solo di queste ultime settimane, ma è di mesi e mesi, che ha permesso di evitare che probabilmente succedesse qualcosa di importante e di impattante anche nel nostro paese. Grazie Giacomo Stucchi, presidente Grazie del Copasir, le auguro buona giornata, buon lavoro. Noi ci fermiamo, sentiamo cosa succede sui mercati, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di quello che succede sui mercati e poi subito dopo ci occuperemo di un disegno di legge fermo in Parlamento da 6 mesi e del quale si torna a parlare dopo che è stato approvata definitivamente la legge sul divorzio breve. È un disegno di legge sugli accordi prematrimoniali. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Operazione contro Al-Qaeda in tutta Italia, indizi su un possibile attacco al Vaticano. Le verifiche degli americani dopo il raid nel quale è morto l'opporto sono durate 3 mesi, dice il ministro Gentiloni. Il Parlamento era deserto durante le informative. Il presidente del Copasir Stucchi, lo avete sentito poco fa, dice la CIA ha sbagliato. L'indomani del vertice europeo sull'immigrazione, i dubbi sui risultati, critiche le ONG, verrà esteso, notizia di poco fa, l'area operativa di Triton dal punto di vista geografico. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Luca D'Alessandro, deputato di Forza Italia, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ha presentato un disegno di legge sugli accordi prematrimoniali ormai 6 mesi fa, però se ne è tornato a parlare perché dopo l'approvazione del divorzio breve si discute anche di questo. In cosa consiste, cioè cosa vuol dire accordi prematrimoniali? Intanto abbiamo presentato nel perfetto schema da Alessandro Morani, Forza Italia PD, siamo in due, noi relatori del divorzio breve, abbiamo presentato anche questo disegno di legge sugli accordi prematrimoniali. E l'abbiamo presentato 6 mesi fa, abbastanza in silenzio, perché la nostra stella polare era il divorzio breve. Poi ieri abbiamo annunciato questo disegno di legge. E prevede ciò che in questo momento manca in Italia e, malgrado le polemiche di queste ore, sempre a tutela di un rapporto, diciamo, civile maggiormente sereno fra i coniugi, anche in previsione della tutela dei figli. Noi siamo in presenza di una giurisprudenza che di fatto vanifica eventuali accordi prematrimoniali fatti tra i coniugi, cioè c'è una giurisprudenza che li considera nulli. Allora non abbiamo fatto altro che introdurre l'articolo 162 bis al codice civile, che li prevede per tabulas, nero su bianco. Cioè, in sostanza, due persone prima di sposarsi possono, come succede per esempio nei paesi anglosassoni, e abbiamo certamente anche esempi famosi, esempi di VIP, insomma, che lo hanno fatto e lo hanno anche reso pubblico, di redigere una sorta di contratto nel quale si dice, non so, nel caso divorziassimo, questo tot di patrimonio va a te, quest'altra cosa va a me, e così via. Più o meno è così, no? Allora, più o meno è così. Prima di tutto una cosa da specificare è che il disegno di legge prevede non solo la facoltà di stipularli prima del matrimonio, ma anche durante il matrimonio. Chiaramente in un regime di amore, nel momento in cui c'è ancora amore, perché chiaramente qual è la spinta, diciamo, emotiva di questo provvedimento? È che quando si comincia un'avventura matrimoniale si ha tutto l'entusiasmo e la voglia di proseguirla, quindi in quel momento si è disposti a sedersi intorno a un tavolo e in maniera lucida, matura, ma anche con sentimento, affrontare il dopo eventuale dovesse andare male le cose, quindi con una minore acredine rispetto a quella che c'è quando un amore finisce. E per quanto riguarda il paragone con i paesi anglosassoni, è simile ma non uguale, perché in certi paesi ci sono delle situazioni anche paradossali. Invece il nostro disegno di legge prevede accordi prematrimoniali di tipo patrimoniale e solo limitatamente ad alcuni diritti disponibili di tipo non patrimoniale. Faccio l'esempio, la possibilità per la donna di continuare ad avere il cognome del marito già accordata preventivamente. Questo è un esempio. Non posso invece stabilire che la mia futura ex moglie possa mantenersi fedele anche dopo il divorzio, o possa per esempio non avere un rapporto omosessuale, nel senso, se scoprisse di essere omosessuale, io non posso vietare la sua libertà. Ci mancherebbe altro. Lo so, però noi specifichiamo, cioè, che i diritti indisponibili non sono in questo senso trattabili. Sì. E invece la parte patrimoniale è invece molto, molto importante. Sì. Perché da una parte prevede tutte quelle norme che adesso vengono stabilite in sede di consensuale in modo preventivo. La legge suggerisce anche di stabilire eventuali incrementi o decrementi degli assegni, perché poi dopo, nel caso non dovesse essere stabilito, e poi è chiaro che sarà il giudice a doverli stabilire, quindi il consiglio è stabilite prima, eventuale, cioè, poi evitare dopo conflitti. Senta Alessandro, io però ho dato che siamo quasi in chiusura, ho una curiosità più puramente politica, ed è questa: prevedete che questo DDL incontri ostacoli, ossia, la faccio molto brutale, i cattolici già si oppongono oppure no? Guardi, i cattolici prevedo che ci sarà dell'opposizione. Io ho riscontrato invece da parte del Movimento 5 Stelle una non contrarietà di fondo, chiaramente bisogna leggere il testo, ma la nostra disponibilità è di aver messo questo testo a disposizione di tutti per poi migliorarlo nell'interesse delle coppie e di quelle che sono state coppie e dei minori. Chiaramente sui minori c'è la tutela del giudice, cioè si possono stabilire anche rapporti per i minori, ma è il giudice a dover verificare. Quindi noi auspichiamo un'ampia convergenza. Purtroppo temiamo che quest'ampia convergenza avrà qualche ostacolo, perché se ci si poneva problemi sulla durata del matrimonio, possono porsi problemi sull'accordo prematrimoniale, come stabilire già in anticipo che si divorzia. Quindi immagino ci saranno polemiche. Ma Di quello che è accaduto, io auspico che possano che si vada avanti. Grazie a Luca D'Alessandro, deputato di Forza Italia, Traffico.